Benvenuti a tutti e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, siete sintonizzati sugli 87.9 e ci potete ascoltare in radio seguendo questa frequenza e in streaming sul nostro sito www.radioondarossa.info, ascolta la diretta. Un saluto particolare a tutti coloro e a tutte coloro che sono privati in questo momento della loro libertà. Tracce di cinema oggi parlerà e sentiremo insieme i pezzi della colonna sonora di un film del 2001, Blow, ma partiamo subito con la musica. Questa è la colonna sonora di Blow, che contiene un sacco di bei pezzi classici, tra e cui abbiamo cominciato alla grande, direi. Abbiamo cominciato alla grande con Can't You, con come si chiama? Can't You Hear Me Knocking dei Rolling Stones, che fa parte dell'album Sticky Fingers ed è caratterizzata dal blues di Mickey Taylor in sostituzione di Brian Jones, ma non è durato a lungo questa sostituzione per problemi di, c'erano delle divergenze non meglio specificate. Kate Richards racconta di questo brano che nella seconda parte, diciamo la jam session, non sapevano neanche che stavano continuando a registrarli. Loro pensavano di aver finito e stavano suonando solo per il piacere di fare, e invece è risultato una cosa bellissima, perché questa jam session è amata da tutti i fan dei Rolling Stones. Infatti sembra nettamente divisa in due parti, c'è una prima parte completamente strutturata e poi prende il via questa jam session a ruota libera. Sì, è un'improvvisazione. Sì, il film in questione, come stavamo dicendo, è Blow, un film di Ted Dem uscito nel 2001, ed è la storia basata su un romanzo di Bruce Porter che narra la vita di George Young, un trafficante di droga legato al cartello di Medellin, che diventa il braccio destro di Pablo Escobar. E naturalmente nella storia il protagonista vede un'ascesa, un arricchimento, amore e naturalmente il declino. Infatti Young, che nasce da una famiglia del Massachusetts, nonostante gli sforzi immani che fa il padre, non riuscendo a garantire un adeguato tenore di vita alla moglie, decide in giovane età di che non avrebbe mai fatto la fine dei suoi genitori, e insieme all'inseparabile amico tonno Ethan Suplee parte per la California. Qui si innamora di Barbara, che è Franca Potente, un'altra nostra amica, la nostra Lola Corre, la nostra Lola Corre, Franca Potente, che lo instrada sulla via del fumo facendogli conoscere Derek, uno spacciatore di erba. Quindi Jung inizia uno smercio di marijuana che lo fa arricchire in breve tempo e che gli fa pensare di espandersi, insomma. Viene arrestato con 440 kg di erba e viene condannato a 2 anni di reclusione. Intanto Barbara muore, e questo segna profondamente la vita di George, che decide di non presentarsi al processo e di vivere da latitante. Un giorno si presenta dai suoi genitori ed è proprio il giorno della prima sua rovina. Infatti viene è la madre che lo incastra e lo fa catturare un'altra volta. In carcere questa volta conosce quello che si sarebbe rivelato in seguito la sua rovina, Diego Delgado, Jordi Molla. E i due progettano di mettere in pista un grosso traffico di cocaina, e uscito di galera George e Diego iniziano a contrabbandarle. I due vengono convocati da Mister Machico in persona, il signore della droga Pablo Escobar, interpretato da Cliff Curtis, che prende sotto la sua ala protettrice George e lo fa diventare il suo uomo numero uno sull'asse Medellin USA. George intanto conosce quella che diventerà la sua sposa, Mirta Penelope Cruz, che dalle critiche ho letto che non è stata la sua peggiore interpretazione in questo film. Se ne innamora perdutamente e lei, nonostante l'uso sfrenato in cui Jung la fa vivere, si rivela avida come la madre di Jung, cocainomane fuori di testa, e anche se incinta di una bellissima bambina lo tradisce e lo denuncia, e quindi Jung viene messo in carcere per un lunghissimo periodo di detenzione, e da qui in poi il declino è inesorabile, appunto il carcere, il divorzio, il fallito tentativo di recuperare il rapporto con la figlia che naufraga in un blitz dell'FBI mentre tentava di rimettersi in pista nell'unica cosa che sapeva fare bene, ovvero contrabbandare cocaina. I'm supposed to get it right and done. Mm-hmm. All the tired horses in the sun. I'm supposed to get it right and done. Mm-hmm. All the tired horses in the sun. I'm supposed to is in the sun. How am I supposed to get it in writing done? Questa era All the Tired Horses di Bob Dylan, scritto nel 1970 e presente nell'album Self Portrait. È uno dei brani più strani e misteriosi mai scritti dal Dylan. Tutta voce femminile, tra l'altro. Esatto, non è cantato da lui, per l'appunto, e non ha un testo vero e proprio, perché alla fine ripete sempre la stessa frase, ovvero All the Tired Horses in the Sun, How Am I gonna ride it? Come potrò cavalcarli se sono stanchi? Però qualcuno ha fatto notare l'assonanza tra la parola riding, cioè cavalcare, e la parola writing, scrivere. La pronuncia è quasi simile e praticamente coglie probabilmente l'allusione al fatto che l'artista non avrebbe più la forza di scrivere nuove canzoni. We'll be right back. questa era Rumble di Link Wray, che è stato un chitarrista e cantante statunitense degli anni 50 e soprattutto conosciuto per questo brano qua e per l'uso che ha del rivoluzionario per allora delle distorsioni. Lui infatti usa un amplificatore Premier sfondato con una matita. Pensate un po'. E questo brano nel 59 fu bandito dalle radio di Boston, Detroit e New York perché nel titolo si leggeva un riferimento alle lotte di bande del West Side Story, che era vero. Infatti Rumble vuol dire rombo o rissa. È probabilmente l'unico pezzo strumentale della storia che sia stato censurato, e forse perché il suo incedere cupo e violento e minaccioso ha un tale potere evocativo che suonava troppo rivoluzionario per quell'epoca. E questa era Let's Boogaloo di Willie Rosario, scritta da Roberto Valentin. Ah, Willie Rosario è nato a Puerto Rico in una famiglia povera ma di grandi lavoratori e inizia i suoi studi musicali grazie al padre che, vedendo in lui una forte inclinazione musicale, gli fa prendere delle lezioni di chitarra e sassofono a soli 6 anni. Ma lo strumento a cui Rosario era veramente interessato erano le conga. e nel 1946 forma la band Comex e dopo essersi trasferito con la famiglia a New York inizia a suonare le conga in varie orchestre. Si laurea anche in giornalismo e pubbliche relazioni e un giorno, visitando il Palladium Ballroom di New York, incontra, sente Tito Puente suonare e viene letteralmente folgorato. Capisce che con certezza che i timbali, sì, anche timbales va bene, sì, chiaro, che sono delle percussioni, no? Sì, sì. Sono la chiave per realizzare la sua passione musicale. Nel 1959 forma la sua prima vera band, che suona per 3 anni nel club Cabo Royeno di New York. Quando non suonava, Rosario lavorava come DJ alla WADO, una stazione radiofonica spagnola di New York. Nel 1962 firma con Allegre Records Label e tiene concerti in Venezuela, Panama, Colombia, Messico, Curaçao, United States, Virgin Island e in tutti gli Stati Uniti. Nel 1980 si dedica ad un'attività commerciale, aprendo il Tropicana Club a Porto Rico con il socio e compagno musicista Bobby Valentin. Rosario è stato nominato nel 1987 per un Grammy Award per la sua canzone Nueva Cosecha e ha vinto vari dischi d'oro e di platino. Yellow World delle J Girls, delle quali non abbiamo notizie, però questo brano ci conduce all'ospite di questa settimana, che è Mazzino Montinari. Dovrebbe essere in linea, se non sbaglio. Sì, sono in linea, ciao Federico. Ciao, ciao, benvenuto Fabio. Come stai? Bene, bene, sono un po' sorpreso di essere stato chiamato in causa per questo film, ma e tra l'altro non so se hai visto, cioè, sono più di 10 puntate, ogni puntata abbiamo un amico e collega interlocutore, sì. E mi sei venuto in mente te, non so perché, però... Va bene, in realtà poi il film, tra l'altro, appunto, è un po' come una sorta di l'incubo dell'esame di maturità che si avvera, perché è un film che avevo, di cui avevo memoria solo perché avevo scritto una recensione tanti anni fa, nel 2001, appunto, quando uscì il film in Italia, e quindi è come un po' ripresentarsi all'esame, un po' così, cercando di dire va bene, ma io avevo già... C'è stato un tutù e sei sparito, Mazzino. Esatto, ma non so se si è sentito quando ho detto il film non è memorabile, allora forse lo spirito di Ted Demme ha subito colpito la mia telefonata. Perché purtroppo, tra l'altro, non so adesso, non ricordo se è stato detto nella premessa, insomma, Ted Demme, che era il nipote del più famoso Jonathan, morì un anno dopo la realizzazione di Blow, e a 36 anni, quindi in realtà poi noi non sappiamo neanche bene cosa dire di questo regista, perché appunto morì molto giovane e abbiamo questo film, insomma, come il più importante esempio della sua attività da regista. Sì, e sì. Tra l'altro, scusami, vado un po' a random, ma tra gli sceneggiatori invece c'è un figlio d'arte che è Nick Cassavetes, che vedi. Figlio di Cassavetes, padre, e che poi diventerà regista a sua volta con un altro film tratto da una storia vera, Alpha Dog, lo cito perché appunto è uno dei film più noti suoi in Italia, quindi insomma anche lì fu una collaborazione tra figli o nipoti d'arte. Sì, sì. Oh, io l'ho visto, l'ho rivisto per parlarne oggi, e la classica storia di legata spesso alla droga, di grande sfarzo e lusso, bella vita, e poi il lento precipitare anche molto doloroso negli abissi. Uno dei passaggi che secondo me sono centrati e la dice lunga anche sul sistema penitenziario è quando Johnny Depp afferma che il secondo ingresso in carcere per lui è stata come l'università del crimine, perché prima spacciava marijuana e da lì invece è entrato nel grosso giro della cocaina. Lui era il riferimento per gli Stati Uniti di Pablo Escobar, insomma. Certo, guarda, l'esempio è School of Crime, dice Johnny Depp, appunto, Johnny Depp, insomma, dice George Young, il personaggio interpretato da Johnny Depp. Sì, hai citato probabilmente uno dei punti chiave, che tra l'altro, ovviamente noi poi, così come lo stesso Giorgi, quando parla in retrospettiva, no? Noi ovviamente parliamo come sapendo già come sono andate le cose, sappiamo persino chi è Pablo Escobar, insomma, quindi ci è molto semplice fare questa descrizione degli eventi. È chiaro che al presente quello che invece risuona è un certo senso un po' questa magnifica idiozia del personaggio, no? Che si ritrova al centro di storie di cui lui non è neanche tanto consapevole, no? Sì. E però, insomma, lui appunto vende erba, poi va in prigione, lì dovrebbe essere in qualche modo il segno di una fine, tra l'altro viene tradito dalla madre, e qui bisognerebbe anche dire qualcosa lateralmente ai ruoli femminili, che sono tutti, diciamo, negativi, perché la madre lo tradisce, la moglie lo tradisce, la figlia non lo andrà mai a trovare in carcere. L'unica che si salva è quella che però muore subito, per cui, insomma, diciamo che anche lì... Sì, è vero, è vero, è vero, hai pienamente ragione. Sull'orizzonte femminile stenderei un velo pietoso. Invece, su quello che hai appena detto, è interessante perché se poi vogliamo, il film non ha questo merito, però in un certo senso è la metafora degli Stati Uniti. Tieni conto che il film è uscito nel 2001, in realtà è uscito prima delle Torri Gemelle, in Italia uscì pochissimo dopo, cioè 2 settimane dopo, però quello conta poco, ed era un modo di vedere, raccontare gli Stati Uniti che poi forse negli anni successivi non ci sarà più, cioè, o è stato perlomeno messo in qualche modo in quarantena, cioè l'idea appunto di una perdita dell'innocenza, di una di una grande ascesa e poi di un rapido declino, no? Tieni conto, se pensiamo a un altro film che forse è più interessante da questo punto di vista, molto diverso peraltro, che è Paura e Delirio a Las Vegas, quello di Terry Gilliam, sempre con Johnny Depp, sempre con Johnny Depp, sì, esatto. E magari un giorno lo farete. Non mi ricordo adesso la colonna sonora, se da vedere ce lo studiamo. Vediamo la colonna sonora, sì. Però appunto, quello che poi ci racconta questa storia, ma ce lo racconta perché noi insomma in qualche modo siamo in qualche modo costretti a conoscerla e a rifletterci sopra, è appunto l'idea di quello che poi l'escalation della droga, soprattutto con la connection colombiana, ha significato per la gioventù statunitense, no? In qualche modo dalla crescita, dalla consapevolezza politica degli anni 60, arrivando per il 68, sì, con tutto quello che poi era accaduto, Martin Luther King, Kennedy e via dicendo, per poi arrivare al Vietnam e alla droga, che sono due elementi fondanti in quello che è successo negli anni 70. E George Young è in qualche modo protagonista di una parte di questa storia, e lui forse è appunto totalmente inconsapevole, perché appunto il film ci pone di fronte a due George Young. Uno è quello che ho definito l'idiota inconsapevole, per quanto affascinante, e anche insomma dalla presenza poi di Johnny Depp come attore. E l'altro invece è quello più consapevole, che è quello che è la voce fuori campo, che racconta poi retrospettivamente dal carcere, dal penitenziario, la storia, la sua vicenda, no? Sì. Tanto è uscito di carcere un anno fa, tra l'altro. Esatto, perché poi, come si vede nei titoli di coda, il fine pena era previsto per il 2015, quindi tu mi dici che è uscito un anno fa, quindi... Ma guarda, ti devo dire, non sono così bravo, ho semplicemente letto su Wikipedia. Quindi non ho seguito le vicende di Giorgi. Dovrebbe essere il suo anno buono. Sì, quindi insomma, è il 2015, no, e tra l'altro appunto sempre leggendo insomma un po' in rete, perché mi ha incuriosito a tanti anni di distanza di leggere un po' la sua vicenda, pare che invece poi la figlia dopo il film appunto sia andata a trovarlo in carcere, un po' pentita di quello che aveva del diniego, no? E anche questo aspetto poi della figlia, del rapporto con il padre e con la figlia nel film, riporta poi questa sorta di doppio demone, di ambiguità, no? Cioè, tra la voglia di emergere e cavalcare a suo modo, con le sue declinazioni, il sogno americano, e quello poi invece di avere dei valori che sì, certo, hai tradito con le scelte che hai fatto, ma che comunque poi restano il tuo unico appiglio, no? Per cui c'è questa lettera un po' strappalacrime, questa registrazione strappalacrime che fa il George ormai in carcere al padre, e questo sogno di incontrare prima o poi la figlia. Sì. Oh, invece... Non so, forse sto brutalizzando un po' il film. No, non ti preoccupare, non era una... Intanto non c'è nessuno di voi che ha degli interessi, no? Esatto, noi lo abbiamo considerato soprattutto per la colonna sonora, e devo dire, certo, che risentendo, cioè vedendo il film e poi risentendo la musica, e tutti i pezzi migliori, tutto il rock, il surf anni 60 e 70 che compare in colonna sonora è legato a un momento preciso, quello della bella vita, e quando le cose sono in completa ascesa per lui, tutto rose e fiori, e insomma, e questa è la musica che accompagna questi momenti, insomma, questo non so se tu hai avuto modo di sentire qualcuno dei brani inseriti in soundtrack, Mazzino. Sì, ho sentito intanto quelli che avete riproposto voi durante la trasmissione, nella precedente mezz'ora. Poi ovviamente rivedendo il film, è chiaro, quello che dici tu, il film si spezza praticamente in due parti, sì, la parte, diciamo, quella che hai appena enunciato tu, e poi c'è la parte che in qualche modo un po' più didascalicamente diventa anche, tende, vira un po' più verso il latinoamericano, perché chiaramente c'è questa prima fase messicana e poi questa seconda fase colombiana che dà al film fa virare il film verso questi ritmi e queste sonorità. Da un certo punto di vista è più interessante, Mazzino, la prima parte. Scusami Mazzino, ho parlato sopra di te. Stavi dicendo? No. Stavi concludendo dicendo? No, avevo concluso, nel senso appunto si divide in queste due parti fondamentalmente, poi è chiaro che ci sono delle altre scene, altre situazioni in cui non c'è questa divisione così secca, però insomma diciamo che questo è uno dei due, l'impianto maggiore insomma. Beh, a parte il fatto che abbiamo due nomi interessanti, il mio è un po' più banale, il tuo però lo vorrei approfondire, magari poi dopo ti chiamo e mi racconti. No, invece io ho trovato interessante, a parte il film che è una biografia su un personaggio realmente esistito, ho trovato interessante il racconto storico che riguarda appunto la storia appunto del narcotraffico in America in quegli anni, legato diffuso grazie a una grande libertà appunto di mezzi economici, e anche dal fatto che ci fosse una grandissima corruzione comunque tra i capi saldi che dovevano controllare poi il commercio appunto di droga. Quindi secondo me dal punto di vista storico Dem ha fatto una buona analisi e un buon racconto, non so. No, ma questo è indubbiamente, anzi hai ragione quando dici che mette veramente in luce, cioè da un punto di vista storico chiaramente lui ti racconta, insomma il film rappresenta, mostra questa sorta di cambio anche generazionale, da un certo punto di vista, ma con mezzi e con anche consapevolezza estetica ben diversa. È un po' come quando per esempio vediamo uno dei primi film di Paul Thomas Anderson, Boogie Nights, in cui si racconta invece cosa succede con il cinema porno. Cioè ci sono questi grandi affreschi storici che raccontano esattamente un momento in cui la società cambia, no? E questo per esempio viene raccontato dal passaggio dal commercio in grande quantità di marijuana alla cocaina, che poi non segna semplicemente un piccolo cambio di gusto, ma rappresenta una cosa che ha un impatto economico e anche un impatto sociale e politico abbastanza importante, se non devastante. Quindi da questo punto di vista sicuramente è chiaro che poi tutto questo andrebbe in qualche modo articolato attraverso poi qualcosa di più potente, senza fare riferimento a una delle attrici che fa parte di questo film, ma insomma cioè manca probabilmente un po' una, ma forse è anche il personaggio stesso che non dà questa possibilità, no? Perché appunto, ripeto, la cosa incredibile di tutta questa storia, e poi molte volte magari è così, è che sì, lui del tutto un uomo, elementare, un uomo inutile. Sì. Lui del tutto elementare, faceva le cose avventurose così, inconsapevole, sì, esatto. Sì, è un po' come, non so se avete presente un film di tanti anni fa, insomma, che si chiama Rosencrantz e Guildenstern sono morti, insomma, è un po' un personaggio collaterale che poi improvvisamente si trova al centro di una storia senza forse saperlo neanche bene. Lui in fin dei conti era un genio dell'affare, del business, però appunto era diventato il braccio destro di Escobar, insomma, che ha rappresentato per tanti anni uno dei cioè io vi ricordo insomma quando c'era Pablo Escobar che non si parlava di Bin Laden, il nemico numero uno o uno dei nemici numero uno degli Stati Uniti era Pablo Escobar, quindi sì, stiamo parlando di un personaggio di un certo rilievo, e anche che richiamava a un immaginario, sì, chiaramente, esatto. Che non a caso ha avuto poi anche cinematograficamente delle rappresentazioni importanti. Oh, giusta Mazzino, il tuo riferimento anche a Boogie Nights, perché diciamo che il sesso libero e la droga erano stati due degli elementi dirompenti del momento di contestazione tra gli anni 60 e gli inizi degli anni 70, a partire dagli Stati Uniti ma poi in tutto il mondo. E poi l'industria del porno e il narcotraffico a livelli armati e internazionali sono poi le degenerazioni di queste spinte libertarie che c'erano state in quelle società occidentali, e anche la base economica dell'America, insomma, che si basa soprattutto, certo, su questo, sulla diffusione, la vendita di armi, di droga, insomma, sì. un paese puritano e reazionario che fa la guerra a tutto questo, ma sotto sotto invece ne usufruisce ampiamente. Sì, al di là poi della campagna della guerra al narcotraffico. Senti Mazzino, in chiusura io come faccio anche con tutti gli altri ospiti chiedo se c'è un qualche titolo che ti viene in mente da considerare per la colonna sonora da utilizzare poi in una delle prossime puntate. Ma guarda, non saprei risponderti in modo secco. Il primo film che mi viene in mente, o che mi è venuto in mente in realtà prima della trasmissione, pensando a quale film mi sarebbe piaciuto, ma parlo proprio da un punto di vista cinematografico, è il film di Todd Haynes, I'm Not There, perché al di là del fatto che Bob Dylan sia un autore comunque importante, ma voglio dire, da un certo punto di vista è anche scontato, non è una scelta così originale, però è un film che io personalmente, poi non so gli altri, amo particolarmente, perché insomma, è un film particolare, in cui sei attori, tra cui un'attrice, Kate Blanchett, interpretano Bob Dylan in vari momenti, in varie fasi, e la colonna sonora è certamente quella delle canzoni di Bob Dylan, ma reinterpretate da altri autori. Quindi è un film che, ma soprattutto per il film, ecco. Bene. Allora, prevale la mia visione cinematografica quella musicale. Musicale. Però sicuramente prendiamo nota. Mazzino, è stato un piacere, alla prossima a questo punto. Certamente. Grazie a voi. Ciao. Buon pomeriggio. Crawl inside. Questo era il bellissimo brano Can't You See dei The Marshall Tucker Band, con questo flautino figo, eh? Chi sono? Il Marshall Tucker Band è un gruppo di Southern Rock della California del Sud e debutta sulla scena musicale con l'omonimo disco nel 73. È sempre stato considerato un gruppo non fondamentale, marginale purtroppo della scena, però la critica lo ha anche definito spesso tra i migliori gruppi per l'appunto di questo genere, che è il Southern Rock. Sempre, siccome a noi ci piace il soul, e poi per introdurre Attica Blues, ovviamente, questi erano Sort of Soul, cioè erano i Birds and Brass e il brano Sort of Soul. Bene, io citando una frase di George Young, del film Blow, vi dico: sei il mio cuore e io potrei vivere senza il mio cuore? Questa frase la dedico a questa radio e a tutti voi che ci ascoltate, e vi prego di sottoscrivere al conto corrente postale 61804001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma, per sostenere questa radio libera, indipendente, senza padroni e senza pubblicità. Dal 1977. Ora adesso noi ci mettiamo a ragionare sul prossimo titolo, giusto Ottavia? Sì, c'è da pensare un pochino, eh? Allora ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. Con cosa ci lasciamo, David? Strange Brew dei Cream.